questo giovedì 25 ottobre. Il titolo di apertura del Sole 24 Ore è Salva Stati, Draghi convince Berlino. Questo è il titolo, mentre tutti gli altri quotidiani più o meno aprono con la notizia del giorno. Oggi non potete scamparla, cari ascoltatori, se comprate qualsiasi giornale, paginate e paginate sull'annuncio di Berlusconi che pare definitivo. Berlusconi lascia e lancia le primarie del PDL, questa è l'apertura del Corriere della Sera. Per Repubblica la resa di Berlusconi, non corro più. Il Fatto Quotidiano, Berlusconi scappa. L'Unità sostiene che non si ricandida. Il Giornale mette una foto, praticamente tutta la pagina dedicata a Berlusconi col titolo Arrivederci. Il Messaggero, il passo indietro di Berlusconi. La Stampa, uguale titolo, il passo indietro di Berlusconi. Libero, sotto a chi tocca, lascia Berlusconi. Il Secolo XIX, PDL primarie senza Silvio. Insomma, come vedete, c'è Pubblico che mette questa frase che ha detto Monti con la foto di Monti e di Berlusconi: please relax. Avete sentito Monti nel GR, eh? So che parlate molto di me, si parla molto del futuro, but please relax. Berlusconi lascia il campo, anche è il titolo di apertura di Avvenire. Invece il Quotidiano Nazionale, da cui voglio partire, è una notizia con cui abbiamo aperto anche il nostro giornale radio, effettivamente è una notizia che riguarda moltissimi, centinaia di migliaia di italiani, questa storia dei vaccini. Il Quotidiano Nazionale la mette in prima pagina: vaccini, è uno scandalo, questo è il titolo. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che, come avete sentito dal ministro della Salute Balduzzi, sono state ritirate 490.000 dosi di vaccino anti-influenzale perché sono considerate potenzialmente pericolose, prodotte dalla Novartis. Tra l'altro c'è, secondo i giornali, anche una polemica perché il ministro ha fatto notare che già dall'11 luglio scorso questa anomalia era nota a Novartis, questo secondo la ricostruzione del ministero, ma solo alla fine della scorsa settimana è stata presentata la documentazione che ne attestava l'esistenza di questa anomalia. E scrive per esempio Margherita De Bac sul Corriere della Sera, pagina 25: aggregazione proteica, questo è un termine tecnico che al profano non dice nulla, ma che riferito al ciclo di lavorazione di un vaccino ne determina il blocco. Poco meno di 400.000 dosi di anti-influenzale fabbricate da Novartis, in parte peraltro già distribuite alle farmacie, molte sono già state anche vendute, alcune saranno state anche utilizzate, dunque vaccini che sono stati già iniettati nelle persone, sono state però ritirate dal commercio. Ovviamente, come succede in questi casi, niente panico. Il ministro ha detto: per chi avesse già iniettato il vaccino, se non ci sono nessun tipo di reazione, non succede nulla. Se notate qualche tipo di reazione, il numero verde del ministero, credo 1500, che peraltro non ho capito, ecco, questo si può dire, perché attivo da lunedì, ho sentito dal ministro, ma come da lunedì? Se c'è un'emergenza si spera che sia attivo fin da subito. In ogni caso, già era successo con la ditta Crusell, che aveva ritirato per un'altra vicenda 2 milioni di fiale per esiti negativi di alcuni test, questo la scorsa settimana. Insomma, questa vicenda è affrontata da tutti i giornali. Il Giornale, pagina 18, caos vaccini, non usate le dosi a rischio. C'è anche un'intervista a uno dei virologi più famosi, Fabrizio Pregliasco, che dice: la stagione vaccinale ormai è compromessa, ma non siamo al disastro, bisogna rimediare. Altrimenti senza vaccini si conteranno più morti rispetto agli anni scorsi, perché chi si vaccina riduce della metà il rischio di decesso. Non è un'ipotesi catastrofista, ma è solo statistica. Certo, Pregliasco dice: la situazione è preoccupante perché ora il ministero deve provvedere al fabbisogno di vaccini. Anche sull'Unità, stop ad altri vaccini, Novartis sotto accusa, bloccata la diffusione di 487.000 dosi per aggregazione di particelle dopo il blocco di quelle della Crucial della settimana scorsa. Ovviamente il ministro Balduzzi che invita nessuna psicosi, ma certo stare all'occhio per questa situazione. Mezzo milione di anti-influenzali ritirati dal mercato, così titola anche la Stampa, e su Repubblica L'accusa è questa: l'azienda sapeva dall'11 luglio vaccini pericolosi, stop ad altre 3 milioni di dosi. Non si capisce perché su Repubblica la cifra salga a 3 milioni. Comunque, detto questo, la pagina politica la voglio aprire intanto con due segnalazioni di un articolo che tratta lo stesso tema, vale a dire i bilanci dei partiti. Siete curiosi di sapere quanti soldi i partiti italiani hanno nelle casse? Leggete sul Sole 24 Ore: Mario Lira, Sesto, il debito nascosto brucia l'avanzo dei nuovi partiti. Lo trovate a pagina 19, perché sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale i bilanci appunto dei partiti. PD e PDL chiudono il bilancio 2011 con un avanzo di esercizio, il PD di 3 milioni e 200 mila euro circa, il PDL di 475 mila euro, quindi poca cosa. La Lega è quella che chiude con un avanzo maggiore, 6 milioni e mezzo. Per il resto l'UDC chiude con meno 3 milioni e mezzo, quindi con un disavanzo nel 2011. Italia dei Valori meno 6 milioni e 500 mila euro. Poi c'è Forza Italia, che ovviamente esiste ancora, perché ci sono ancora le vecchie, i tesorieri a volte rimangono, come è il caso della vecchia Margherita, che chiude con un disavanzo di meno 8 milioni di euro. E, tra l'altro, su questo Sergio Rizzo, parlando dello stesso tema sul Corriere della Sera, pagina 11, il titolo è "I trucchi dei partiti per salvare la cassa", fa notare una cosa: gli onorevoli non versano le quote, cioè gli onorevoli, quelli che devono dare una parte del loro stipendio ai partiti, non versano le quote, soprattutto nel Popolo della Libertà questo è un problema. Scrive Rizzo: questi onorevoli sono dei veri taccagni, fargli scucire la manciata di euro che dovrebbero versare ogni mese al Popolo della Libertà, per esempio, è sempre più difficile. Sarà per le sforbiciatine a stipendi e rimborsi, ma è diventato un bel problema, tanto che il tesoriere del partito, Rocco Crimi, ha dovuto richiamare tutti all'ordine. Al 31 dicembre 2011 gli arretrati dovuti dai parlamentari, che devono dare 800 euro al mese del loro stipendio, e gli arretrati dei consiglieri regionali, che devono dare 500 euro al mese del loro stipendio al partito, ammontavano a 4 milioni e 600 mila euro. 4 milioni 600 mila euro che onorevole consigliere regionale del Popolo della Libertà dovrebbero versare come quota per regola al partito e non lo fanno, tanto che il tesoriere ha pubblicato questo grido d'allarme all'interno proprio della, come una voce del bilancio. Bilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale martedì. Comunque sul Sole 24 Ore trovate tutti i disavanzi o gli avanzi di cassa a pagina 19 dei partiti, se siete incuriositi, e invitate questi deputati e consiglieri regionali del Popolo della Libertà, taccagni, a dare la quota del partito. Sono 800 euro o 500 del vostro stipendio, potete anche farlo, no? Se no il tesoriere vi bussa alla porta. 24 mattino, 7:36 minuti. Allora, come detto, oggi qualsiasi giornale vogliate comprare, è inevitabile, la notizia del giorno, pagine e pagine, è la decisione di Silvio Berlusconi con un comunicato di dire: lascio, non mi candido premier e apro alle primarie del Popolo della Libertà, che mi auspico siano il 16 di dicembre. Tutti i giornali ovviamente dedicano paginate su questo, è un po' anche la fine di una epoca politica da quel gennaio 1994, quando ci fu l'annuncio della discesa in campo, dunque una vicenda di 18 anni. Tra gli articoli che ho selezionato, Ugo Magri in prima pagina della Stampa parla di come sia maturata questa decisione: dalla cena con Monti, la spinta decisiva al Cavaliere. Due giorni fa Berlusconi ha incontrato Monti, la spinta dalla cena con il prof, scrive Ugo Magri, qualcosa è maturato nella mente di Berlusconi, una scintilla improvvisa scoccata nella notte tra martedì e mercoledì, certo non un sogno, nemmeno un incubo, ma con ogni probabilità, anche se le ricostruzioni sono lacunose, è un effetto della cena serale con Monti. Dire che il colloquio col professore l'abbia spinto a compiere il passo indietro sarebbe una grossolana forzatura. C'è stata pure la grande pressione del gruppo dirigente del Popolo della Libertà, culminata nella minaccia di Alfano, che avrebbe detto: se qui si continua nell'incertezza io sono pronto a candidarmi premier. Ma non c'è dubbio che il professore ci abbia messo del suo, forse la spinta decisiva. Dunque la spinta decisiva sarebbe arrivata, secondo appunto Ugo Magri sulla Stampa, dalla cena con il premier Mario Monti. Mentre Francesco Verderami sul Corriere della Sera pagina 3 parla del retroscena appunto di questo colloquio a Palazzo Chigi, poi l'incontro con il segretario del Popolo della Libertà Alfano, ed ecco l'accelerazione con questo annuncio. Il progetto, secondo Verderami, è un Monti bis e partito ad Alfano, dunque aprire e sperare in un Monti bis. Scrive Verderami: per non mettere all'incanto la sua storia, Berlusconi doveva passare la mano, tenendo la mano ai suoi eredi. In questo gesto c'è un'analogia con il 94, quando Berlusconi, prima di scendere in campo, si recò da Martinazzoli per invitarla a unire i moderati, impedire la vittoria del centro-sinistra. E così Berlusconi pare che voglia puntare ora su Monti. Io non rinuncio all'idea di vederti a capo di uno schieramento dei moderati, ha detto a cena l'altro giorno Berlusconi a Monti, secondo questa ricostruzione. Non ti chiedo di rispondermi subito, ma a questa idea io non rinuncio. Dunque un Berlusconi che punterebbe appunto al Monti bis. Per Repubblica è la giornata più amara del Cavaliere. Il pressing di Letta e Confalonieri alla fine lo convincono: devi lasciare o saltano le aziende. Scrive Francesco Bei: vedremo se qualcuno riuscirà a fare meglio di me, io me lo auguro sinceramente. Con questo, che è considerato un vero e proprio lutto secondo Repubblica, non un passo indietro ma un lutto vero e proprio da parte di Berlusconi, gonfio anche di amarezza, Berlusconi ha deciso, anche per il pressing del partito, di Alfano, di Daniela Santanchè, dei suoi amici storici come Confalonieri, di Giuliano Ferrara. Scrive Francesco Bei: c'è molto dello stile del direttore del Foglio nella prosa con cui Berlusconi dà l'addio alla politica. Sta di fatto che Giuliano Ferrara, infatti, oggi in prima pagina del Foglio titola così: bravo Cavaliere, grande uscita di scena. Ha preso atto di una nuova epoca che è figlia sua e dei suoi 18 anni di politica, il ricambio generazionale, la fine dell'era carismatica e personale e la continuità con il Monti riformatore e pro mercato. Scrive nel suo editoriale Giuliano Ferrara: al Cavaliere diciamo con simpatia umana, ammirazione, che non poteva entrare meglio in politica e non poteva lasciarla meglio. Su quel che è successo in mezzo si pronunceranno gli storici, con un nostro aiutino correttivo, se faranno gli storiograficamente corretti. E comunque un Ferrara che dice: bravo, giusta la scelta. Ovviamente poi è un profluvio di interviste. Spicca quella di Marcello Dell'Utri, intervistato da Repubblica: Silvio sta malissimo, ma la sua abdicazione non ci farà guarire. È deluso, ma non dico da chi. Così Dell'Utri: lo ha convinto la situazione, ma come sta ora? Male, malissimo. È stata una scelta soffertissima, non l'ha presa certo a cuor leggero. E riguardo alle primarie, Dell'Utri dice: ma perché? Lei crede davvero alle primarie? Chiede Dell'Utri all'intervistatore Carmelo Lopapa. Mentre Vittorio Feltri non nutre dei dubbi, il giornale, ovviamente il quotidiano più vicino a Berlusconi, scrive con Vittorio Feltri: è un addio che sa tanto di arrivederci, c'è un ma, puntini puntini, come se Vittorio Feltri si aspettasse da Berlusconi un altro colpo di scena, un annuncio di fare qualcosa di diverso. Anche il giornale dice che questa mossa a sorpresa di Silvio apre la strada a un Monti bis. Questa è la speranza di Berlusconi, cioè un Monti convinto a guidare i moderati. E Vittorio Feltri scrive: è improbabile che Alfano si sottoponga alla competizione delle primarie per assumere la guida del partito, e nei prossimi giorni vedremo. Allo stato delle cose è difficile fare previsioni. C'è Micaela Biancofiore, quella che si è soprannominata una delle Amazzoni azzurre, che fa una serie di interviste e dice: ora lo hanno stufato tutti, ma vedrete, gli chiederanno di tornare. E poi in un'intervista, credo, a Repubblica dice: abbiamo fondato il partito Fratelli d'Italia, che è l'acronimo FI, come Forza Italia. E dice anche: ve ne eravate accorti? Sì, ce ne eravamo accorti, dice l'onorevole Biancofiore, Fratelli d'Italia. E aggiunge anche: l'unico passo indietro è da questo Popolo della Libertà che ormai fa schifo. Vabbè, insomma, ci sono anche tantissimi articoli, commentatori che ripercorrono questi 18 anni di Berlusconismo e di Berlusconi, con tutte le vicende più importanti. Ci sono ovviamente anche i vignettisti che si sbizzarriscono. Uno su tutti è Vauro, in prima pagina del Fatto Quotidiano. Fatto Quotidiano titola Berlusconi scappa. La vignetta di Vauro è un Berlusconi ritratto in vestaglia. Rimango a fianco dei più giovani, meglio se minorenni. Questo Vauro molto caustico sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. Tanti commenti, tante anche foto story di quella che Massimo Gramellini sulla Stampa definisce la Silvio Novela, ultima puntata della Silvio Novela, ultima puntata o si vedrà. Dall'altra parte invece il Partito Democratico e il centrosinistra, da segnalare soprattutto che cosa? Dai giornali, ovviamente. Vengono messi in rilievo i problemi giudiziari della segretaria di Pierluigi Bersani, il leader del Partito Democratico. Zoia Veronesi, scrive il Corriere della Sera, incarico del PD pagato dalla regione, indagata la segretaria di Bersani. Dove va lui? Scrive Francesco Alberti a pagina 9. C'è lei. È così da 20 anni che sia al vertice della regione Emilia-Romagna o di un ministero, per non parlare poi dell'attuale carica politica. Non c'è un Pierluigi Bersani senza una Zoia Veronesi e la sua agenda. Ora lei, 60 anni, segretaria più affidabile di un Bund tedesco, è indagata per truffa aggravata ai danni della regione Emilia-Romagna. Il sospetto delle procure di Bologna è questo, che tra il 2008 e il 2010 abbia lavorato indebitamente per il segretario del PD nonostante fosse alle dipendenze della regione Emilia-Romagna, per l'appunto. Lei a Repubblica, Michele Smargiassi, dice: sono serena, sono tranquilla, ho sempre lavorato, un sacco di persone mi hanno visto lavorare, non ho nulla da temere. Dice però: resterà solo il fango che mi buttano addosso. Emiliana Di Ferro, figlia di un deputato del Partito Comunista, è chiamata anche il sottosegretario Veronesi, perché anche Repubblica dice: per sapere dov'è Bersani in qualsiasi momento del giorno, in qualsiasi giorno dell'anno, bisogna chiedere alla Zoia, e solo lei è elegante, affabile, inflessibile, decide se farlo trovare o no. Sottovoce ai tempi del ministero, infatti, veniva soprannominata da deputati e dirigenti il sottosegretario Veronesi. E poi c'è la vicenda Sesto. Problemi ancora dall'inchiesta di Sesto, ma qui ripartiamo dopo il traffico. Allora, la vicenda Sesto, come racconta il Corriere della Sera con Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella, incella l'architetto del sistema Sesto. L'accusa è nei confronti di Renato Sarno, architetto di successo, e quello di essere, secondo i PM di Monza, un collettore di tangenti per il centrosinistra. Questo anche su Repubblica. Manette all'architetto del sistema Penati, raccoglieva tangenti per la sinistra. Questa è l'accusa. Vabbè, abbandoniamo la politica. La notizia invece, che viene dal mondo del mercato del lavoro e che viene dal Parlamento, riguarda gli esodati. Allora, la notizia è abbastanza clamorosa, tanto che è un emendamento, per carità, ma quindi è tutto in discussione in Parlamento, ma è tradotto dai giornali così: una tassa sui ricchi per tutelare gli esodati. Questo forse è in arrivo. Davide Colombo a pagina 8 del Sole 24 Ore. Un contributo di solidarietà del 3% per gli anni 2013-2014 su tutti i redditi, comprese le pensioni, che superano i 150.000 euro. Servirà questo per rafforzare il fondo da 100 milioni introdotto nella legge di stabilità e che ora viene destinato a esclusiva salvaguardia dei lavoratori esodati. Allora, che ne pensate? Una tassa sui ricchi, un prelievo del 3% per i redditi, pensioni comprese, che superano i 150.000 euro per tutelare gli esodati. È un emendamento. Ora il testo ovviamente dovrà superare il vaglio della Commissione Bilancio. La tassa sui ricchi salva gli esodati. Ecco, questo è il titolo, per esempio, del giornale a pagina 11. Oppure il Fatto Quotidiano: una tassa sui ricchi per salvare tutti gli esodati. Staremo a vedere, ovviamente è una discussione molto aperta, però già fa discutere, torna l'idea della tassa sui ricchi. Vi segnalo invece sul tema della libertà di stampa che cosa? Beh, in discussione non c'è più, pare, l'ipotesi del carcere. Si sta discutendo questa legge sulla diffamazione a mezzo stampa, la nuova legge che nasce dal caso di Alessandro Sallusti. Tra l'altro, senza ironia, ma si può dire che Alessandro Sallusti è entrato, è andato in carcere. Lo si può dire tranquillamente perché il quotidiano Pubblico ha fatto proprio questo. Ha portato Alessandro Sallusti a incontrare i responsabili della rivista Nuovi Orizzonti, che è un giornale, Ristretti Orizzonti, che è una rivista che viene fatta al carcere di Padova. E Alessandro Sallusti ieri è entrato nel carcere di Padova per incontrare i detenuti. Ecco che allora Pubblico titola così: abbiamo portato Sallusti in carcere per un giorno. E c'è il racconto di Silvia Giralucci da Padova, a pagina 14 di Pubblico, di appunto questa giornata del direttore del giornale che incontra i detenuti e dice viene accolto così, finalmente può vedere in faccia coloro che il carcere lo vivono tutti i giorni. C'è anche un invito vero e proprio, che al di là dell'ironia è un invito vero. Chiedono i redattori, i carcerati di Ristretti Orizzonti, al direttore del giornale: chieda l'affidamento ai servizi sociali e venga a fare il direttore del nostro giornale. Dovesse entrare ovviamente in carcere. Sta di fatto che il racconto, il resoconto, è anche una giornata molto intensa con Alessandro Sallusti, con anche le foto dell'incontro con i detenuti in carcere. A proposito di diffamazione a mezzo stampa, il Manifesto da 2 giorni sta portando avanti un'iniziativa di questo tipo. La voglio rendere pubblica anch'io. Il Manifesto ha perso una causa contro Riccardo Decorato, che è l'ex vice sindaco di Milano e anche un parlamentare. E deve pagare il Manifesto 20.000 euro, una cifra che il Manifesto dice noi non ce l'abbiamo, e deve pagare in solido, deve pagare l'autore di quell'articolo ritenuto diffamatorio, Luca Fazio, e anche lui adesso è in cassa integrazione come molti del Manifesto, quindi anche lui non ha i soldi. Decorato, nonostante i nostri inviti a ripensarci, ha detto non mi interessa nulla, dovete pagarmi. E allora il Manifesto cosa fa? Ha promosso una colletta pubblica attraverso i suoi lettori, dando l'IBAN del proprio collaboratore Luca Fazio, dicendo cari lettori, se volete offrire qualcosa, se volete dare, noi dobbiamo dare 20.000 euro a Riccardo Decorato, salvate il nostro redattore, fioccano le monetine, così intitola in prima pagina il Manifesto. E poi il racconto a pagina 2, con tanto di IBAN, intervista, diciamo il sostegno va inviato sul conto corrente intestato a Luca Fazio, collaboratore del Manifesto, con tanto di IBAN a dire aiutatelo perché non ha i soldi per pagare l'onorevole Riccardo Decorato. Chissà, magari lo chiameremo Decorato per capire se ha voglia di rinunciare a questo risarcimento che gli spetta, perché un giudice ha deciso così. Ma il Manifesto dice 20.000 euro noi non li abbiamo. Dovrei chiudere con la Gazzetta dello Sport, uno stillicidio, non ce l'hanno consegnata. No, non è vero, povero diavolo, questo è il titolo d'apertura. Ma perché povero diavolo? Siamo secondi, se finisse ora il girone di Champions League saremmo promossi agli ottavi di finale, vinceremo la Champions League, questo lo dico oggi il 25 ottobre, il Milan vincerà la Champions League. Giornale Radio.